Il governo italiano contesta alla Capanamur il fatto che, secondo le autorità italiane, appunto il luogo dove la Capanamur ha rintracciato il gommone con i 37 ragazzi a bordo si trovava in realtà più vicino a Malta, alle acque territoriali maltesi. Questa circostanza è stata assolutamente smentita dal comandante della nave, che tra l'altro mi ha mostrato personalmente sia i diari di bordo sia i dati sul viaggio della nave, che sono tutti registrati su computer, e secondo appunto questi dati risulta che il luogo in cui la nave ha rintracciato il gommone con i 37 ragazzi a bordo invece si trovava a 100 miglia da Lampedusa e a 180 miglia da Malta, quindi ben più vicino alle acque territoriali italiane rispetto a quelle maltesi. Tra l'altro il comandante ci ha anche detto di aver invitato ripetutamente le autorità italiane a salire sulla Capanamur e verificare direttamente questi dati, la registrazione del viaggio della nave, e chiaramente le autorità italiane non hanno accettato questo rinvito. Quello che posso dire è che il comandante, tutto insomma l'equipaggio della nave, l'organizzazione tedesca è decisa ad andare avanti a oltranza, anche perché a questo punto sono sicuri che se dovessero cercare di attraccare in altri porti stranieri si vedrebbero rifiutare l'attracco, proprio perché appunto secondo loro è chiaro che l'Italia è lo stato competente ad accogliere queste persone, per cui sono sicuri che dovessero provare con qualche altra nazione riceverebbero lo stesso rifiuto, per cui sono intenzionati a restare lì fino a quando la situazione non si sblocchi tra le autorità italiane e il governo tedesco. Però insomma è abbastanza noto che Malta non accoglie profughi. Purtroppo formalmente Malta rispetta tutti i principi sia della Convenzione di Ginevra e ultimamente con l'ingresso nella Comunità Europea formalmente deve anche adeguarsi alle linee guida per ciò che riguarda il diritto d'asilo formalmente. Poi è vero anche, questo lo sappiamo anche da testimonianze dirette, che informalmente Malta questi principi non li rispetta, quindi in realtà Malta sappiamo che non è proprio un paese che tutela il diritto d'asilo, però ripeto, formalmente dovrebbe rispettare le stesse linee guida, gli stessi ordinamenti internazionali e comunitari dell'Italia. Allora, noi siamo stati sulla nave venerdì scorso con un medico e un interprete, un mediatore culturale di lingua araba, e la situazione era abbastanza buona sia dal punto di vista dell'accoglienza prestata ai 37 ragazzi dall'equipaggio della nave, sia dal punto di vista sanitario. L'unica preoccupazione è suscitata dall'acqua, dalle riserve di acqua potabile, perché la nave comunque le produce attraverso dei meccanismi molto sofisticati, comunque col motore acceso, col motore in movimento. Essendo la nave ferma a largo, chiaramente non può produrre acqua. Dal punto di vista sanitario la situazione è anche abbastanza sotto controllo, nel senso che non ci sono patologie particolari, se non quelle legate alle condizioni di viaggio di questi 37 ragazzi, mi riferisco ai 3 giorni di viaggio sul gommone fatti prima di essere rintracciati dalla Capanamur, per cui presentano problemi di carattere muscolare, di carattere problemi di gastriti, ma ripeto, tutte patologie di entità limitata e legate alle condizioni precarie del viaggio.